moccioso in mezzo ai grandi. Ho imparato da loro a comportarmi. Voglio tutto, mica campare davanti. Quella vita l'ho fatta per troppi anni. Mamma, guardami, spendo 5.000 euro per outfit. Non guardo più il prezzo, non faccio più calcoli. Borsa, Burberry, ci filo dentro i contanti. Voglio 4 Audi, cat cat con tanti cavalli. Qualche Ducati, seppe smanicato, seppe compagni, pure il mio avvocato. Ho uno zio morto, perché era un tossico. Per questo quella merda non la tocco. Per questo quella merda non la tocco. Sto tutto in para, voilà. Willy desole ma guapa. Spostavo chili, non sono del centro. Ghetto boy con i miei amici, in brutti giri. Tagli in faccia, son più bello di prima. Se non faccio un milli, la faccio finita. Voglio un miglio, torno a fare rapine. Voglio un miglio, torno a fare rapine. Degage, benefits, no haram legal. Non voglio colleghi, ho solo fratelli. Free esco, free baby. Desole baby, noto nei problemi. Degage, benefits, no haram legal. Non voglio colleghi, ho solo fratelli. Free esco, free baby. Desole baby, noto nei problemi. Odio e rabbia per i carabinieri. Per quiz in casa c'è mia madre che sclera. Grigus, Jack, Danny, finisco Belvedere. Domage, ma bella, resto con i miei negri. Sono del ghetto, mica ville a schiera. Bevevo Jack da in cortile con medie. Pulivo boss solo in casa con baby. Tappare le basse con le luci accese. Se sei paranoico, ho per le sirene. Guido senza patente, cazzo mi frega. Guido senza patente, cazzo mi frega.